sono dei posti dove ti senti subito a casa. Rock FM. Dei posti dove tutti i piaceri della vita hanno un sapore unico. Pane, burro e rock and roll. Rock FM. Per darti un po' di festa, tutti i giorni. Signore e signori, sono le 8 del mattino, inizia la seconda ora di diretta di Pane, Burro e Rock and Roll. Sono le 3. No, sono le... Ma oh! E comincia Frigider. Ma no, è Pane, Burro e Rock and Roll! Qui sono le 8. Aspetta, sono... Ma voglio fare anche, insomma, è un 5. Vuoi dire, sono le 3, alla radio c'è l'Ariete. No, sono le 8. Qualcos'altro. No parole. No parole. Sono le 3. Arriva Frigidaire. Sono le 3. Quanti già arrivo? Da quando non c'è più Spadino è un vero casino qua. Ma tu non hai mai ascoltato Frigidaire? Eh no, è Pane, Burro, Rock and Roll. Sono le 3. E comincia Frigidaire. Sono le 3. Con DJ Ariel. Questo è Pane, Burro e Rock and Roll, puntata 209 di venerdì 21 marzo 2008, l'anno della svolta contro il muro. Cosa sta succedendo in questi studi? Vorrei capirlo. Guarda un po' te. nato qualcuno oggi venerdì 21 marzo. Cazzo che inizio, complimenti signor Antoni, che in fuori onda per tutta la durata della canzone non ha fatto altro che dire c'ho l'inizio. Ce l'ho, lo sento che ce l'ho, sarà pur nato qualcuno. Quando uno c'ha l'inizio signor Antoni. Quando ce l'ha. Che ci vuoi fare? Chi è nato il 21 marzo? Chi fare gli auguri? Me lo stavo chiedendo dalle 5:20 di stamattina io, chi è nato il 21 di marzo? Fortuna che adesso lo scopro. Guardi, oggi venerdì, le propongo quest'altro inizio. Sì. Oggi venerdì 21 marzo io muoio dalla voglia di fare gli auguri a qualcuno. Tipo? A John Sebastian Bach. Esatto, nato nel 1685, compositore famosissimo, celebre organista tedesco. Lei sa per quale qualità, per quale tipo di composizione era famoso? La fuga. Bravissimo, era un po' un tranello. Pensavo in una battuta, lei quando fa così ho sempre un po' paura. Invece la fuga di Bach. Ecco, benissimo, no, non volevo che scivolasse su. A lei volesse la fuga. Sono rincoglionito stamattina, no, mi scusi, no, no, sono ermetico. Intanto, 1938, ricordiamo Luigi Tenco, cantante e cantautore italiano, scomparso in tragiche circostanze nel 67, mentre nel 47 nasceva Franco Mussida, fedele ascoltatore di Pane, Burro, Rock and Roll, mitico. Sì. Franco. Un saluto. Compositore e cantante italiano della premiata Forneria, certo. Marconi. Ma certo che ascolta. Certo che ascolta. Sicuramente non ascolta Ayrton Senna, che però nasceva oggi. Quindi gli facciamo così un ricordo. Nel 1960. E per chiudere in meraviglia questa settimana e questi compleanni, il saluto dagli microfoni di Pane, Burro e Rock and Roll vanno a Anastasia Kiss. Nasceva nel 1973, mitica porno diva italiana. Esatto, è mitica, vorrei dirla io. Buongiorno a tutti. Buongiorno. La grande mitica Natasha Kiss. Che come se la dice, ricorda. Sì, me la ricordo perfettamente, come dice il suo cognome finto, Kiss, Kiss. È la regina del bacio. Sì, esatto. Bene, pensavo peggio, è andata bene. Bacio in tanti modi, non le dico come. Viva Natasha, e viva venerdì, e viva il 21 marzo. Maestro, beva un bicchierino di chinotto che le passa. E me, che c'è? gli amici saranno gli amici. Io devo salutare un amico, Ale, patentato 353, anche lui via SMS, però non via mail, scrive, lascia la sua testimonianza sul perché ascolta Rock FM, ma soprattutto oggi compie gli anni, in un messaggio molto commovente, io lo ringrazio e ci sparo pure la strombazzata. A proposito di strombazzate, ieri qualche testa calda del rock and roll, quale non farò il nome perché sono un signore, doveva andare in questura, questo per farvi capire la clientela di Pane, Burro e Rock and Roll, veramente delle teste calde. Con strombazzata è andato tutto per il meglio, d'altra parte si sa, si sa. Questo è Pane, Burro e Rock and Roll, in diretta fino alle 9. Certo, siamo rocker, allegri, simpatici, solari, pronti a far cacciare tutto il giorno, ma a volte la vita è dura, ma non l'ho inventata io, citando un collega amico fumettista italiano, e a volte le porte ti vengono sbattute in faccia e bisogna arrabattarci. Lo sa Roberto Fricantoni, un artista, un poeta che non è riuscito ad avere un vitalizio dallo Stato, cosa che in realtà sarebbe doverosa per un uomo come lui, e quindi a volte ci colleghiamo con la metropolitana. Si fa quel che si può fare. Salute a tutti, buongiorno. Vi vedo così pimpanti nonostante l'orario, così mattiniero. Mi presento, scusate, qui in metropolitana, so che forse non è il caso. Tanti vi importunano, ma vi giuro, vi garantisco, io non sono uno di quelli. Ci tengo a presentarmi, sono poeta, paroliere, fine dicitore, Roberto Fricantoni degli Schiantos, che certamente tutti... No, non conoscete. Bene, io vorrei sottoporvi alcune poesie, almeno una quartina del mio poeta preferito, che si chiama Fosco Maraini. Ma oggi è un giorno, il giorno ad Urlapicchio, a Zimpagi e Zirlecchi, un giorno tutto gnacchi e timparlini, dove le nuvole buzzillano, i bernecchi luderchiano coi fernagi tra i pini. Biglietti, prego. Buongiorno, biglietto. Buongiorno, guardi, io biglietto. Sono un poeta. Io no, ho capito, stavo... ma serve il biglietto per salire in metropolitana. Ho capito, ma io stavo declamando. A lei stava facendo accattonaggio? No, assolutamente, io volevo così distribuire a piene mani. Ha il biglietto o non ha il biglietto? Non ce l'ho. Ma scusi, ma non mi ha riconosciuto, io sono Fricantoni. E chi è? Ma Fricantoni, il cantante degli Schiantos, mi avrà visto sicuramente a Colorado Caffè. La trasmissione con la Brescia. Sì, sì, mai sì, visto. Sì. Lei non l'ha mai vista, mi segua, comunque il biglietto va fatto ugualmente. Venga con me, prego. Rossella Brescia è una mia amica, sì, sa. Sì, prego. Se vuole le do il numero. No, no, non può corrompermi. Il biglietto ce l'ha? No. E allora mi segua. Va bene. Goodbye. Io ne ho imparate di cose in queste mille puntate di Pane, Burro e Rock and Roll. Certo è che la comicità è un orologio preciso. Se lei mi sbaglia la battuta, mi sbaglia anche solo una virgola, una pausa, ecco che crolla tutto il castello della battuta. A carte 48. Tutto il castello della barzelletta, ecco, va in qualche modo in frantumi. Siamo allora al reparto barzelletta di Brian. Sì, la barzelletta è il primo passo popolare, dunque, the first step popolare, very very popular, popular anzi per l'umorismo sì, per godere appieno dell'energia comica, perché il comico è energia. Ecco, solitamente ci tiene a una piccola introduzione dell'intervento di Brian. No, direi di no. No, allora andiamo subito a sentire. Aspetti, perché dica. Qui abbiamo sempre un incrocio, uno scontro. Abbiamo una barzelletta piena di elementi che cozzano, e dico cozzano, sì, certo, uno contro l'altro. Ha detto bene, guardi, non vedo l'ora di sentirla. Leggo negli occhi di Spadino che è pronto. Andiamo con l'intervento di oggi. La foresta, ci sono tre animali che stanno correndo. Corrono. A un certo punto si scontrano tutti e tre nello stesso momento. Dopo un po' si risvegliano, si guardano e si dicono: ma tu che animale sei? Perché io non mi ricordo niente. No, neanch'io mi ricordo niente. Secondo te che animali sono? Ma guarda, io mi ricordo vagamente che sono nato da un cane e un lupo, perché mia madre era un cane e mio padre era un lupo, io sono un cane lupo. Ah sì, è vero, tu sei un cane lupo. E l'altro dice: ma sì, anch'io mi ricordo, perché mio padre era un grillo, mia madre era una talpa, e sì, io sono un grillo talpa sicuramente. E tu che animale sei? Io sono una zanzara tigre. Se la ride, una zanzara tigre. Un finale scoppiettante, sì, un finale prevedibile, ma comunque originalissimo. Lei pensi allo scontro di questi animali che poi, poi si confondono, perdono la memoria e si ricompongono, ecco, in chimere. Le chimere, sì, gli animali impossibili, sì, no? Il grillo talpa, ecco, metà grillo e metà talpa, metà talpa e metà grillo. Il cane lupo, metà cane, metà lupo. Ma soprattutto? Soprattutto il finale, abbiamo il nonsense, ancora una volta sottolineato, da questa zanzara tigre. È come concepibile che una zanzara possa copulare con una tigre e viceversa. Ecco, è una questione di dimensioni. Infatti, il trionfo dell'impossibile, perché vede, la barzelletta rende possibile l'impossibile, l'irragionevole diventa ragionevolissimo. Mi scusi, ma la mamma è la tigre o la zanzara? La tigre può accoppiare, no, non riesce a accoppiarsi con la zanzara. Però una zanzara può entrare in una tigre. Quindi, e quindi forse la tigre è la mamma. La tigre è la mamma, sì, forse. Interessante. E me, che c'è? You shake my nerves and you rattle my brain. You must be loved as a man insane. You broke my wind, what a thrill. Couldn't miss your wreck, it's just quitting balls of fire. maestro, a volte mi soffermo a ragionare. Nella storia del rock ci sono band che hanno scritto tutto quanto. Ma certo, i Beatles, ma forse. Oppure. Non lo so, gli Who. Gli Who, bravo. I Rolling Stones. Quasi, ve ne dica altri. Aspetti, i Kinks. Non sono loro oggetto del test attitudinale di quest'oggi. Poco conosciuti in Italia, ma famosissimi in tutto il mondo. Ve ne dica altri, ci provi. Aspetti. I Led Zeppelin. Quasi, ci siamo vicinini. I Cream. Palo. Gli Yardbirds. Yardbirds. C'eravamo lì, quasi. Oggetto di quest'oggi sono gli Yardbirds. Gruppo mitico, Sì. Fatto da campioni del rock dell'epoca. Sono stati virtuosi. Uno dei primi gruppi rock britannici, formatisi nel 63. Originariamente fecero dell'ottimo blues e poi arrivarono al pop rock dopo grandi successi come For Your Love. Gli Yardbirds sono noti anche per aver dato inizio alla carriera di molti dei più famosi chitarristi della musica rock. Sì. Talmente tanti che è forse meglio chiedervi chi di questi chitarristi non suona mai negli Yardbirds. Ipotesi A: Jimmy Page. Oppure ipotesi B: Eric Clapton. O infine ipotesi C: Jimi Hendrix. Chi di questi tre maestri della sei corde non suonò mai negli Yardbirds? Jimmy Page, Eric Clapton o Jimi Hendrix? La soluzione? Fra poco, e cioè la risposta esatta pochissimo dopo. La